Ma come mai, non riesco a capire, come non fanno gli americani, forse l'hanno fatta 20-30 anni fa, apparecchiature commerciali, adesso non se ne sentono più nuovi prodotti, a parte questi giapponesi che stanno tirando fuori delle belle apparecchiature, però gli americani ormai sono molti a livello di commercio, parliamo di apparecchiature commerciali, prima trovavi le Collins, i Drake, adesso non ne senti più di prodotti nuovi. Perché gli americani non sono tagliaferaggi, loro la intendono così, no? Loro dicono questo, no? The best communication, la migliore comunicazione. Loro hanno solo un obiettivo, ed è quello di essere esaltati, siccome sono megalomani, ma non hanno ragione. Quando non li esaltano, loro chiudono i bastioni. Sono stati così. Adesso cosa hanno fatto? Adesso ne vengono dalle giù, ci sono americano, da tutte le parti, stanno tirando fuori la presa. Come dire, mettono la parte, stanno tirando fuori, mettono la Nikon, sono pittature illuminate. Anche la Midland ci si è messa con la parte, alla grande. I urbani americani, la polizia urbana americana, tattica sono Midland e Nikon. Ho detto qualcosa, qualche piccola sinceramente, perché quando tirano fuori cose allucinanti. Parlo di UHF, più del centro. Sono molto attratto dalle cose americane. Credo che loro la vogliono sempre in modo molto serio. Sicuramente c'è qualcuno che sta cercando di sovramodularti, però non ce la fa passare, sentivo la portante però lo passare. No, ma io gli americani, come hai detto tu, secondo me molte volte vivono sugli alluri. E poi dice, sennò quando non ci stimolano di nuovo non facciamo niente. Così è stati, non so se lo sai, si è aggiornato i motori marini. Facciamo l'esempio della Johnson e della Everwood, che erano la Mercury, il top dei motori, vabbè, non c'era concorrenza. Ma infatti a un certo punto che sono stati scavalcati dai giapponesi, dicasi Yamaha, Honda o Suzuki. Sono stati almeno una quindicina d'anni, vabbè 15 no, ma almeno 10 anni che hanno perso almeno il 50% del loro mercato. Adesso hanno tirato fuori un motore rivoluzionario ancora a due tempi, contro usurati che lavorano sui quattro tempi, consuma quanto un quattro tempi, emissioni inferiori a un quattro tempi, ed è sempre un due tempi, però è iniezione diretta. Vediamo un po', avanti chi può entrare? Gli americani hanno sempre fatto roba buona, molto difficile come progettazione, ma guarda, il trasformatore di uscita audio, cazzo, io posso lasciarne qualcuno, ma sinceramente non ho ancora capito come la sorte di usarla. Ho un'idea, no? Ho un'idea. Perché una volta ne ho preso uno questo piccolo, l'ho passato in due, l'ho tagliato in due. Poi l'ho sciolto, cioè tagliato in due lo schermo prima, e poi l'ho sciolto con della benzina, dopo giorni, sono riuscito a tirare fuori di una specie di catrame che mettevano allora, a vedermi in mia diritta concezione, ma a portarmi in preparazione che c'erano proprio per fare in modo per chiudere, era un autocomplimentante questo aiuto. Qualcosa di critico, la mente, aiuto, no, non esiste mai cose così, io dico che ho fatto amatore italiano aperto, che ho fatto amatore francese, della Miglia, però no, quello che fa la Sancora americana, mi dispiace, la fabbrica di noi, Chicago, mi dispiace, non c'è paragone, non c'è paragone. No, non c'è, io adesso totalmente non mi ho finale, sto usando un trasformatore della Sancor, ma poverino, è una bestia, feroce. Quindi Natalino lo fa sapere qualcosa, Natalino ha visto qualcosa, Natalino ha visto tutto quello che lo aveva. E vi garantisco che un po' di massa può fare, anche perché ho comunque le mani di quelle cose. Trasformatori che sono giusti. Quindi vi ho fatto con... Ma per i casi cardiaca, aspetta, come fanno loro, megalomani, capito? Alcuni sì, Pancor Mirceci, Cavo di Luce, bella anche la cardiaca. Devono metterlo bello in evidenza. Quando c'è scritto Made in USA è sempre quella la musica, fa un diverso aspetto che averlo Made in Europe o Made in Cina. Ma cosa Made in Cina? Ma ti rendi conto che se io premo portante, come sto facendo con questo apparecchio, in un semplice finale lineare italiano, ZKG, compagnia bella, con i passaggi che faccio io, adesso di qualcuno alla Falcone, anche se io comunque me lo prendo dietro, lo stesso col destro si scioglie non solo il lineare e il trasformatore, ma si scoppia la valvola finale, perché poi inizia a picchiare il trasformatore, si disintegra il raddrizzatore e si fonde anche il taraglio. Diciamo ZG, vabbè, è un marchio abbastanza economico, diciamo, no? Ma ci saranno sicuramente in Italia dei prodotti validi, non dico a livelli dei big americani, però anche noi già sappiamo costruire qualcosa. Là. L'italiano è un grandissimo progettista, il secco dell'italiano è un grande imbroglione, ma tu nota, tu vai in America e qui oltre al negozio e dici buon day Italy, tutti se ne scappano, rimani da solo. E vabbè, dipende da cosa dobbiamo dare pure. Là. No, che entri dentro, come se vero italiano si spaventano, disordinato, casinista, almeno che non hai amici di un certo livello, allora ti presentano in modo diverso, però sempre loro sono, sempre loro comandano, loro sono capaci di inibire, come si dice, e una persona scopre di esaltare. Vabbè, loro hanno i soldi e il potere, diciamo, però noi siamo nati molti ma molti secoli prima di loro, loro sono venuti molti secoli dopo di noi abbiamo tutto da insegnarli, loro hanno i mezzi per farle le cose, però l'intelligenza costruttiva ce l'abbiamo avuta noi molto prima di loro. Se devo fare un raccanto tra me e un americano, io avevo detto le cose, non solo uno, ahimè sono andato via con questo. Ma se devo fare il confronto, anche loro avevano paura di quello che facevo. Arrivato a questo punto, le cose iniziavano a pesare quando loro mi vedevano con le mani, no? Prendere quel blocco di ottoni, iniziare a crearmi il supporto per una parete 900 MHz. Lì che mi vedevano lavorare con le prese, fare, capisci? Poi vedevano come mi facevo un circuito fantastico, il quinto dicevano questo, ma veniva fuori lì il piccolo preamplificatore a 900 MHz perfettamente schermato nelle bande come quelle che io quando ti vuoi facevo vedere cose allucinanti, guadagni speciali, capisci? Quando mi viene a disposizione loro avevano una grande reazione per me tutti e due e ancora che ancora con i progetti qualcuno si riunisce le portate via con valide anche in America. Mi hanno presentato un bel posto, un po' per la semplicità, no? Per la semplicità e per la pura festa dei prodotti, hanno fatto amplificatori per surround cinema con Zeus surround, e cioè sale a dire che questi finali sono di decoder, prisi completamente, prisi di decoder stessi, di decoder surround, eppure in effetti li senti lo stesso, è un Zeus surround naturale. E adesso l'ha fatto uno la Yamaha, la Bose l'aveva fatto, ci sono delle unità di ritardo, dei simulatori, vabbè. No, sinceramente non è la stessa cosa, qualcuno dice che ti dà la stessa sensazione, però sentiti è diverso. Sentiti, non capisco. Diciamo uno che ha un orecchio abituato, fine, è confrontato con un sistema surround sui canali, confrontato con questi virtuali che sono manipolati, che fa, adesso ne ha fatto uno la Yamaha che ha una ventina di altoparlanti su un unico canale, cioè su un canale frontale c'ha delle unità di ritardo eccetera eccetera, i sistemi digitali di modifica del suono, cioè diciamo della spazialità del suono, ne ha fatto uno la Yamaha, però io non ho sentito quello, se ne parlava un gran bene, ma sicuramente non è la stessa cosa di avere un impianto con le casse una posteriore, anteriore, centrale eccetera eccetera. Io stavo parlando di 4 più una cassa acustica con un surround senza però il 5G elettronico, cioè per appunto i 5 canali, io parlo di due canali con video surround. Due canali con video surround, cioè vale a dire che tu hai lo stesso, un attaccamento degli effetti per una forma di sovrazioni del segnale, fatto in un determinato modo ovviamente, con un servizio di canali, cioè per poco fa parlare a quelli alle scuole milionari, ed è presente in America. Io ho aiutato, contribuito a fare quel sistema, l'hanno portato lì, esiste, un vicino, ma stanno tutta qui, molti sono amici ovviamente che hanno questi cinema, perché ci sono anche cinema piccoli in America, noi che cinema, noi ci immaginiamo che molti, ci sono anche dei piccoli cinema dove fanno i soldini così, capito? Sì, no, però quello che volevo vedere, tu vedrai, questa è la semplicità, adesso ne ha fatto uno con un unico gruppo di altoparlanti, un unico canale, la Yamaha ne ha fatto uno nuovo che riesce a simulare, un simulatore, a emulare diciamo un impianto 5+, però sicuramente, dice, un ottimo suono, niente da dire, però manca qualcosina, dice, per le frequenze basse, diciamo, sentire i canali posteriori, quelli che c'è, adesso c'è anche 7 canali, ma ne stanno facendo tutti i colori, ormai surround sta diventando una cosa fuori dal mondo, dai. Stanno cercando di ricreare le situazioni, ma secondo me i canali non basterebbero mai, perché hanno fatto prove anche a decine di canali, cioè come nella natura, quando c'è una situazione naturale, diciamo, non potrei mai riuscire a riprodurla al 100% come la natura, almeno se ci sono certe situazioni parliamo. Dimostrando che è impossibile rendersi perfetti come la realtà, posso dimostrare di prendere a calci nel sedere con 5+1 e con 5+1. Indubbiamente con una copia di carta acustica alto rendimento e con il sistema surround così come c'è detto, allo stesso ma non troppo di Cavanzan, posso dimostrare che ha fatto il sedere, quando vuole, dove vuole, come vuole. Spaventano e terrificano la gente con tutti i paroloni, però quello che è detto acustica è quello che sono i mostri delle prove, i mostri sacri della potenza, è quello che un buon impianto a due canali, fatto così come ti sto dicendo io, specialmente per parlare allora a Dio, e saluto bella, tu vedi quegli impiantini così che possono andare sia no a fare concorrenza che di pane nero. Guarda, io ti dico una cosa, tutto il discorso che stai facendo tu è logico, naturalmente stiamo parlando di casi esagerati, tu per avere la qualità di un suono, a parte tutto il discorso delle carte, amplificatori e cose del genere, la cosa principale senza considerare queste cose che sono talmente importanti è la situazione dell'ascolto, diciamo, la stanza dove ascolti la musica, la diffusione sonora diciamo della stanza, l'assorbimento, la riflessione delle pareti, l'altezza delle pareti, i pavimenti, i mobili, ci sono troppi fattori e l'uso domestico, tutte queste cose che mi stai dicendo tu, per avere una cosa ottimale deve avere una camera anecoica dove fanno le prove eccetera eccetera, per cui tutte queste cose, queste prove che stanno facendo sono tutte cose secondo me molto molto così, che stanno non, diciamo non nella realtà. Sono che comunque in un film negli ambienti ci sono anche un paio di funzioni, in un film il suono comunque non è come in questo ambiente, e quindi è giusto anche di produrre un modo sbagliato perché si riesce, nel senso che è completo le istituzioni di questo, ma non troppo. Praticamente basterebbe mettere dei pannelli astrofinti agli angoli che già a cavallo. Non è che poi, se tu in una camera neccolta non senti più niente. Una camera neccolta ha un fortissimo assorbimento. E c'è un pianoforte. La camera neccolta si usa per altri motivi. Nel film sicuramente dove sono i cantanti sono camere diciamo così, camere isolate, ma non anecolte. La camera anecolte è quella che ha le pugne, dopo quella hanno casse acustiche e dove gli ambienti devono essere completamente presi di impressione, ma comunque non è ascoltabile una cosa del genere, infatti. No, ma io sto dicendo, ci sono dei casi, infatti dico, dovresti fare delle prove o in ambienti completamente assorbenti, tipo la camera anecoica, oppure in ambienti d'ascolto calibrati, tipo i teatri, dove ci sono i tetti non paralleli al pavimento, un sacco di cose, di situazioni particolari, cure di materiali, eccetera, eccetera. Cioè materiali di un certo livello per cercare di evitare le riflessioni, cioè di non crearti gli scompensi. devo essere sincero, questo programma di una camera non isolata sicuramente diverso da quella non isolata. Lungi da me non dirla questa cosa, è vero. Molto importante la mia ascolto, il punto d'ascolto è l'altezza. Ma questo è già tutto, ci siamo. Sempre, sempre ricordandoci che è impossibile, riprodurre la perfetta realtà dei piani sonori, almeno così come sono situati al momento che dovete ascoltare nello stesso avviso. Voi posizionarli in quella direzione con un buon impianto e sky, però non sarà mai come il live. Questo così anche. Vediamoci dalla testa gli obbrobri che si cantano. Oppure tutti gli altri che ci dicono, contati questo che è reale, contati quello non è mai reale, niente, la reale è solamente chi va a ascoltare una stessa dal video, quella è reale, quella sì che è dal video, tu tutto il resto lascia il tempo che trova. Ma fondamentalmente tutto questo malattia impulso, altro non sono che un elettrone così, diciamo, ben condito, però ha componenti poco buoni, perché un elettrone ben condito può avere un sapore diverso, è un elettrone basilico, tutto un pasticcio. Io sinceramente parlando, basilico nella mia, tanto uguale, sinceramente parlando trovo questi mattinini elettronici una sorta di imbroglio, per far l'occhio alla persona, quindi ammaliano le persone. Però fondamentalmente, se io gli sparo in faccia un impianto come si deve, poi con gli infonici spariscono. Io ho fatto già delle prove con macchine di costi abbastanza elevati. È bello, è bello, io sono sicuro di quello che ti dico, perché l'ho comprovato. Guarda, ho parlato con Mondesca per anni, quindi capisco cosa vuol dire la caricatura. E te lo dico, guarda, però confermo, il discorso è nato tutto da dire, ci sono troppi fattori che influiscono sulla resa acustica di un impianto stereo, oltre naturalmente alle casse, che è l'ultima cosa che ti dà il suono, è l'amplificatore, diciamo la sorgente che produce il suono. Ci possono essere troppi fattori per cui non si riuscirà mai, come hai detto tu, ad arrivare alla realtà. Cercherà di avvicinarti il più possibile alla realtà, si arriverà sempre al punto più vicino, però arrivare alla realtà è talmente complicato perché ci sono troppi fattori. Al momento dell'ascolto dell'orchestra, quell'orchestra aveva un violino di quella marca lì, quell'altro amplificatore ti toglie quella sonorità di quel violino, ascoltato per dire quella orchestra a 10 metri di distanza, tu in casa tua non ti puoi mai ascoltare per dire a distanza così, l'altoparlante della casa tua è riposizionato a un'altezza rispetto all'orecchio, troppo alto o troppo basso, non è la posizione ideale, sono troppi fattori per cui arrivare alla realtà è matematicamente impossibile. Questo è praticamente impossibile, questo è sicuro, perché altrimenti un cono dell'altoparlante si dovrebbe vibrare per farmi sentire i violini come dico io, farmi sentire un contrabbasso come dico io. Per quanto io possa aver combattuto con la risoluzione di suono, per quanto possa aver considerato i vari finali con le cosiddette armonici, con giuste considerazioni, con giusti suoni in asse, con giusti allineamenti temporali, non sono mai riuscito a ottenere una fedeltà come dall'alto. È una fedeltà che si avvicina, l'ho avvicinata all'87%, grande cosa, però è importante il resto, importante, manca qualcosa, ed è quel qualcosa che c'è in realtà. Perché se tu un segnale elettrico lo trasformi in un segnale così, diciamo così, acustico, e lì con precisione si chiama l'acustico, tramite una catenata che contribuisce a comprimere molecole, l'unica cosa che riusciamo a fare è sentire quel suono. Non riusciamo a fare altro. Non abbiamo una riproduzione della realtà, assolutamente, anche perché il violino una vibrazione che nell'aria manda un suono che sposta quelle molecole, ma lo sposta lui, senza che direttamente non sia emesso niente, senza che passi attraverso il suono della sua parlante. E tutto questo fa sì che un circuito elettronico, ovviamente, dove viene modificato, alterato, aggiunto, tolto, scoppiattato e ripiattato. E poi ci siamo fermati al discorso delle casse, che poi dopo l'amplificato che ti ha creato delle piccolissime o tantissime anomalie, diciamo, di riproduzione rispetto all'originale, poi ci sono le casse che sommano ancora di più i difetti, perché le stesse casse non esiste l'altoparlante perfetto al 100%, c'è sempre qualche difetto di concezione costruttivo o di limiti, non lo so, di qualunque cosa, ti crea delle distorsioni, delle impurità, delle decadimento, delle esaltazioni di certe frequenze, per cui sono tante cose sommate, alla fine non riuscirai proprio per quel motivo lì che ho detto prima ad arrivare a restituire l'immagine iniziale della, diciamo, del suono. Sì, una cassa acustica principalmente ha una sua distorsione, ha rotazione di fase, perché ha rotazione di fase, si porta su una cassa 2-3-Dio con tutte le nuvole separati, temporalmente non trova più un allineamento, quindi rimane delegata la musica, in pratica non fine là. I concentrici sanno di usa fatta, larga banda è una potenza corta, ognuno è più di più. Allora si cercano tutti, casse caricate a basso nickel, bicconi tirati dentro, resi allucinanti, si cerca tutto per migliorare. Poi ci sono le casse che sopra che mangiano corrente di capirla, tante cose sono state fatte nel campo di sapere, tante, ma la musica olografica, cioè la olomusica, quella che dovrebbero fare in futuro, io ancora non la conosco, ma se dovrebbero riuscire a fare un sistema che suona in vuoto senza altri parlanti, non gli elettrostatici o non altri sistemi, non cose strane, ma veramente che provenga da uno strumento che suona in vuoto, che suona in genere, da tutti gli strumenti che suona in vuoto, allora se avremo una musica così, loro musica, allora sì, come riproduzione. Allora forse ci avviciniamo alla realtà, ma siccome non esiste ancora quello strumento, però accontentiamoci di raggiungere il terreno. Stiamo parlando già di fantascienza, vabbè, chissà, chi vivrà vedrà, come si dice, perché se parliamo di casse, ogni cassa allo stesso altoparlante montato su un diverso tipo di materiale c'è un suono diverso, se ci mettiamo a controllare, se metti cassa in legno, cassa in marmo, cassa in ferro, ogni materiale c'ha una sua frequenza di risonanza, eccetera eccetera. Ma guarda, per il materiale è un'altra cagata, principalmente il materiale non deve avere risonanza, comunque poi vabbè, una cassa comunque si copre con un filtro, una volta che ti la chiudi, ma a prescindere ci sono altri parametri da mettere in considerazione, da prendere in considerazione, parametri che spesso sottovalutati mortificano in modo imminente il suono, anche di molte volte di un buon impianto. È una brutta data da pelare in quel settore. E a chi lo dice, vabbè, io adesso non sai che mi stia più appassionato, nel senso così, con questo amplificatorino, come ti ho detto l'altra volta, ho riscoperto la musica, diciamo, un'altra fedeltà, diciamo, mi sto riascoltando di nuovo la musica, perché è arrivato a un certo punto, alla fine ti stufavi pure di sentire, le sentivi tante porcherie di cose in giro, alla fine ho detto, come in macchina, adesso ho la macchina mia, ho l'impianto in dotazione, non mi frega niente di rimontare l'impianto che avevo nella punto, che avevo un impianto di un certo livello, altoparlante di un certo pregio, componenti sistemati in certe posizioni, eccetera, eccetera. Infatti dico, dicono, ma c'hai l'impianto qua, non te l'ho detto, non me ne frega più niente. Ma molte volte con questo amplificatore non mi sono di nuovo affezionato a riascoltare la velata fredda, però molte volte vai in questi negozi, vedi delle persone incompetenti e senti parlare, ti dicono, ti mettono, non a me perché no, diciamo, non è che mi faccia bindolare, però sento molti discorsi e dico, mamma mia, ma lasciamo perdere. Sì, loro un po' come l'altro giorno, no? C'erano negli award, c'era il fumaro, così esiste il fisso, non esiste il dubbio, così esiste, no? Non si può dire, gli ho spiegato che faccio così esiste un disco per capire il livello di queste due persone. Mi sono graziato che non andava avanti, secondo lui tutti gli altri non c'erano, non esisteva, mentre gli altri c'è il fisso che non è correlato per l'input al processore dell'immagine. Una cosa più grazie. Io vi dico quel grazie che me lo fa andare avanti, ma quando si indecide, l'ho detto, me l'ho detto così ma era vicino. Mi scusi, per la precisione, vi dico grazie, non prendo traccia. Questo qui inizia, arriva a un certo punto. Non è che si blocca, c'è la musica. La musica continua, è l'immagine che non va avanti, rendo l'idea. Quindi c'è qualche fisso non è correlato, per cui non riesce a riprodurre il punto dell'immagine. Un ragazzo, un attimo graziale. La suonare, lo cambia o no? Un attimo non è cambia, se lo stesso di due lo cambia, dice forse si è operato, adesso devo cambiare anch'io. A cosa serve? Va bene, prenderete 10, 100 mila clienti. Mi sto facendo casino da manca a destra. Chi entra in media volta a comprare CD è maledetto, deve morire. Sì, però un CD nuovo, un CD audio stai parlando, o DVD? No, PS2, PlayStation 2, brutti animali bestie. C'era quello lì che stavo indicando, con il mio figlio, diceva, io da questo qui, io sarei per giocare il disco, no? Però adesso mi tiro in diretto, cade sulla faccia terra, fuori dalla sorveglianza, qui passo a volare, adesso li ammazzo tutti. Urgere, sai come passa la ragione al porto, si inizia a massacrarne qualcuno, e allora ho detto, vabbè, però la trattampi, l'ho mandata a fanculo, e ho detto, ma vada a quel paese, proprio su inglese, ma mi faccia il favore, mi faccia il favore di un po' in giro lì, porta la gente, specialmente chi è incompetente, come tutti i commercianti che trovano i fondi da pelare, prendono e lo pelano ben bene, siccome io non sono un pollo, guardi, sono manifesta a questo modo, mi faccia il favore, vedete, perché quel ragazzo mi diavolo, poi il direttore fa a fumare con gli occhiali, quello è un barbettone con gli occhiali, lo manda a fanculo direttamente. Questo va bene, fino a fare il panella qui una sequenza, che cosa vuol dire? Che comunque vi farò pubblicità negativa, vediamo quanto vale. Ha piegato di spalle e se n'è andato. E poi questo dei graffi, le incisioni sono all'interno del tratto interno, già lo sai meglio di me, del disco. All'interno lo puoi anche graffiare, ma anche non lo spezzi in due, il CD legge sempre. Matteo, CD di PlayStation, di tutte le maniere, non era mai successo, mai, mai, addirittura ne ho tutti i piedi, ci ha passato sopra una mandria. Beh, per sé, ti dimentichi che la lì un amore legge per la PlayStation. Arriva lui, lo stronzo di turno e manifesta che il bambino aveva stato il disco e grazie non ce n'erano, ce ne fossero, però praticamente diventa dei grazie trasversali, non erano di finale, no, ma non erano grazie, erano, sai, quando le facevano stare sopra. Sì, ho capito, ma guarda, è più facile, le mani ci lasciano un'impronta, le mani, la lente ti dà la riflessione, non riesci a vedere, ma proprio il grazie raramente succedono problemi. A meno che non sia un solco, appunto. Con un'insistenza, una maleducazione, quelle tre baldracche che sono dentro, che le ragazze proprio non ci lavorano più che nelle scuole, che sono in scuola, un'antipatia unica, e poi che io ti faccio pubblicità, fai più di no, sicuramente adesso i miei clienti, no, a me ti devo in soffio, e basta che non ti facendo, ha pagato, perché ci fa pagare qui da un'azienda. Non ti devo far pagare facendo gli spesi, mettendo fuoco, dando un pugno in faccia a tuo operario. No, che ti faccio la ragione a te, ti dicono parletti, c'è bastardo e ammazzato. Invece così, no? Pubblicità negativa, spendi meno, intrusi, intrusi ovunque, veramente una brutta sensazione di Dio, che c'è quello, perché loro dicono, loro dicono che hanno più ribattenti, come hanno fatto tanti altri, questo perché loro vogliono prendere il percento della gente, vogliono inculare 23 euro, 25 euro, come si inculano 25.000 clienti. Purtroppo c'è gente ignorante, molte volte sono gente così, li mettono lì dentro, non hanno idea di cosa vuol dire coccolarsi il cliente, dai. Perdi, sono convinti loro di non perdere niente, nel senso per 20 euro quanto costa il CD, 20 euro, dice risparmio 20 euro, no, non hai risparmiato 20 euro, hai perso un sacco di soldi perché tu sicuramente devi fare la pubblicità negativa, molti clienti dici guarda non ci andare più perché ti tirano fregato eccetera eccetera, non sono i 20 euro, perché la politica commerciale molte case, pur avendo ragione, come capitano delle garanzie, non parliamo di CD, sto parlando di altre cose, di vetture, preferiscono molte case fare la garanzia pur di accaparrarsi il cliente e accontentare il cliente, e questa è la politica commerciale. Ma non si può essere una politica commerciale dove c'è uno che non collega il cervello al momento giusto, che apre la bocca e agita la lingua solo per muovere aria, cosa ne fai di un tipo così? Non lo sai niente. Io quando l'ho pensato ho detto questo è un allotto di prima categoria, possibile che non esista mai la persona dal vivo. Però quando me lo sono guardato ho detto questo è un pezzo di merda. E infatti era un pezzo di merda, non ero sbagliato. Ha iniziato a incrociare parole e ho detto senta, lui non capisce niente, e non è colpa sua, adesso, perché non è colpa sua. Però il CD è di qualcosa tutto basta, con questa parola non sono uscita, non è graziato, perché non è graziato, prenda in giro la gente ma meno. Io ho detto chiaro il fondo. Praticamente che lo libero preso alle 7 del mattino, ha attaccato un cappio, gli ha lasciato bene il cappio, poi in centro di lui della piazzetta, dove c'è il produttivo di Alcan, vuole avere un bel palo, gli ha fatto la fune. Poi alle 8.45 minuti e 12 secondi tirato su in una ventina 20-30 metri fino a Ferrara. Io persone che mi capivo, guarda, quello che non ho mai visto, mai, come un essere ignorante, radicato nell'ignoranza. Lo sentivo di che continuavo, ma se ti spiegate che una questione di uccidere, sono un tipo di no, niente, nulla, era piatto, boh, non va avanti su quella traccia, no, lui diceva, ecco, è tutto piatto che non va avanti, non hai capito niente, di questo quando si continua la musica che si continua, vabbè, la musica passa il graffio, le immagini non passa il graffio, ma vattene a cagare. Lo bene io, è ignorante, la gente che non sa come funziona un discorso, un lettore, ma quelle sono leggi, non c'è da sbagliare, se leggi la musica devi leggere anche il video, perché passano solo sul fascio di luce. Ma lascia perdere, guarda, io me lo sono guardato, ma fuscia via, lo voglio più vedere. No, ma poi anche quelle tre baldracche che sono dette delle bambine che dovrebbe dare un calcio di culo da volare, questo, ma non lo scatto, in perché lì. Non è così, c'è anche per la situazione, l'ho detto prima di tutto non si permette, perché sta lì, non si sa la fare, neanche lo scarpe la mattina. Me lo sto dicendo io sono condizionato, ho capito? E non mi rispetto nelle funzioni. Questa è la prima cosa che gli ho detto. La mattina non si sa la fare, non con le scarpe, ma è vero, non si sa, lo sai quante persone? Quante persone sono messe in quei centri di vendita e non sanno manco cosa vuol dire il CD, non sanno manco cosa vuol dire il CD-ROM, non sanno cosa vuol dire il CD. Non sanno niente, lo dicono DVD, capito, come guardi, poi guardi un classico vitellone, sei il figlio del direttore che te ne viene, sei un vitellone, così dire, non mi ascolta, io me lo guardo, così non so lì, se le voci abbassate, suggestioni, vestite docile, un po' amaro, vestito da vitello, però sono guardato con suggestioni quelli, così, nessuno, ecco, questo non pronto, non sei che è un pronto. Ma lo sai quanti clienti prendono in giro, ma lo c'è un pover'uomo anziano lì che se lo guardava a bocca aperta, a bocca aperta, a dire poveretto come si indossa per 25 euro, ma chi sa quante di quelle lamentele, se non faceva che andare in giro, dai fallimenti, due mesi. Purtroppo è così, non ci puoi fare niente tu. Dovresti aprire una causa per 20 euro, è chiaro, siamo, la gente lavora sempre, c'è ragione a quel modo lì e loro vivono anche di queste cose. Finché non trova il tipo che si apre la causa da 20 euro, come è successo a un amico mio ha aperto una causa per 20 euro, si è aperto una causa, ha pagato 20 euro e altri 7.000 di causa, ma gli è costata, e quello che gli ha dimostrato, sarà dimostrato, e gli ha fatto il culo a Elisa, ma sono contento veramente, sono contento veramente, ma moltissimi li prendono per il collo di fanno volare. Che i centri assistenza abbandonano l'assistenza di tutti gli elementi, ma forse da chiunque, perché scoprono che stanno assistendo degli ignoranti, quindi li tagliano i vigili, ma anche per questo succedono molte cose, capisci, perché c'è chi si allontana, capisci perché tu dici, ma non c'è questo, non si può assistere più a questo, quest'altro non, ma cosa assisti, mancano servizi, causa di tutti i mondestali, no? Per confronto la mondestà di Napoli sono niente. Perché ormai la mondestà è un emblema, è un punto di riferimento, no? E vabbè dai, io devo staccare, dai, ti saluto, una bella discussione che abbiamo avuto, ci avremo modo di sentirci in altre occasioni. Corretti da parte mia, saluto tutti gli amici eventuali ascoltoni o ascoltini come si chiamano. Corretti da parte mia, ciao Giovanni o Gianni, come vuoi tu, ci sentiamo alle prossime, ciao ciao. Ciao Roberto, annoiati e scherzati, ci avremmo parlato di biciclette, ruote in pullman, cucchiai, cucchiai di sette, forse sarebbero intervenuti tutti, ma questo è un argomento un po' così, mi posso in tutto chiuso, mi dispiace che tu sia annoiato, e non è venuto perfettamente per favore, però, vabbè, è un caso di eccesso, capisci, come se mi piace essere di zona, ciao ciao. Ci sentiamo alla prossima, ciao ciao. piena piena faccio melodia. E non ti vedo neanche sei, non capisci mai. All'improvviso se l'hanno fatto tu, non so chi l'ha deciso, mi ha preso sempre più, una quotidiana guerra con la nazionalità, va bene tu che serva, ma facci uscire, come vai, ma chi sarai per fare questo a me? Per esempio c'hanno la terra grande, c'hanno dei problemi da una parte all'altra. macchina di ora che si va attaccato. Ma c'è? C'è qualcosa sotto, c'è una caglietta per il dolore. La pigliata la cavino, perché hai visto un gatto? Sotto attaccato, vediamo. Via, l'abbiamo assata, là. Ci vedo un bel cervello. Che cavolo, dito veloce. Ci vedo un bel, avanti proprio. E allora l'ha presa, perché io gli ho detto che la mia cattiva che mi dica, no, che sono in zinca, non faccio rumore. E mica, mi siede, mica. Ci vedo una cosa, penso l'unico. Aspetta, guarda, forse ancora. Mi vedete, la marmita, no, per vecchi. Ciao, tu già. Scusi, te fa, vai qua, qua, ma che raggio? Forte e chiaro! A me, come mi ascolti? Forte e chiaro! Dammi il mio Gianni, cava! Buon passaggio! Taglio già, vai! Io, aspetta, che non posso mantenere. È passato Gianni! Certo! Certo Gianni o io? Gianni, Gianni! Oh, è andata a me, Che saletta? Dove ti arrivo io per qua? Santiago 5. Io, 1, 2, 3. Poco meno di 5. Siamo vinto. È più forte in radio, quella è più rapido. Sul posto, sei tu prego, fate bene i gratti. Vai, la grucca. Certo, mi vuoi far passare i gratti e me ne vuoi far venire un altro di dolore. Meglio niente, allora. Ma tanto non dolore, che sono frigittoio. E allora, vedi, te le due sul poster, là. Adesso non ti ho fatto, a me la sono pure la comunità. Già. Allora, senti qua, chiamano me. No, Giovanni, sta dicendo. Nulla, con la ruspa lo metto. E allora cominciate i lavori adesso da un nuovo bloccato. Credo che stavo lanciando la carreggia, se vuol dire. Allora vanno a fare quattro corsie. Oh, la ganghero. Adesso quando arrivano qua cominciano a espropriare, Olia. Espropriare? Qua, per forza. Vanno a spostare tutti i muri, tutto quanto, li fanno restringere i muri. Sicuramente sì. Oh Gianni, te lo dico, no? Allora, praticamente Alessandro ha parlato il bollettino, però non ha messo nome e cognome, ha messo l'indirizzo di Cagliari e basta. E allora non risulta. E a chi lo fanno? Basta telefonare e dire, guarda, ho pagato il bollettino, però mi sono dimenticato di nome e cognome. Sì, mi sono già informato, ma è tutto ok, perché loro non è che si basano dal nome e cognome, no, con la ricevuta. Se ti dovessero fermare, ti chiedono il numero di codice della ricevuta e quindi lo chiedono a loro se esiste questo numero di codice della ricevuta. Beh, in effetti io l'ho già pagata e quindi il numero di codice c'è e non ripaga nulla, mi hanno detto, perché sono andato e mi sono informato. Aggiungilo tu adesso appena, il nome tuo, l'indirizzo e tutto, capito? Tu hai dei problemi. Sì, infatti mi ha detto così il tipo, e non c'è bisogno, al limite nel tagliando tuo, ce lo scrivi con la stessa colore della penna, con la stessa penna, e non c'è nessun problema, perché il codice risulta di là che tu hai pagato, non c'è nessun problema, loro è importante arrivi a rivinarmi. E come mai te ne sei dimenticata? Se la posta non se ne sono accorto. Sì, quello che mi è sembrato strano, io l'ho compilato, mi sono dimenticato di scriverlo, ho mandato questo tipo a pagarmelo, non se ne sono accorti, o perlomeno, o non rivazzenuta, perlomeno, questo mi fa pensare. Magari tu te ne sei dimenticato solo dalla parte tua, degli altri l'hai scritto. Che non l'ho compilato io, l'ha compilato mio fratello, ma cavolo adesso. Comunque mi hanno detto che non fa niente, dal codice che c'è risulta che è stato pagato, capito? Infatti, fai il telefono duplicato e te lo buono in macchina. Infatti già ce l'ho già. Luca, ma dove c'è perché lui era attaccato? Ah, cavolo cazzo che crepi tutti, no? Meglio mi arrivi così. Ehi, ti sento bene, se arrivi fa uno scatto. Pagata. Ma perché anche staccato ora ce l'avete voi? Non ne abbiamo messo niente. Come vivere quando sei vicino ti fa partire la parita. No, sai che si alza se lo disciplinare, no? Ma se ti ha la schiata da baia a Pierpaolo. Pierpa. E mi che ti comprerà l'ultarante, ma non sia che ho smittere. Ma se tu che tanto via vai, no? E adesso attaccandomi. Attacca. Tu che ha semaforo, no? Mi è venuto, va. Hola? Che è venuto, no, voglio dire, mi è venuto un coso al braccio e non posso fare, va. Ah, ciao Gianni. Come è tu? Buonasera a tutti, C'è andato a vedere a Luca pescando, ma c'è una deluso oggi, non ha preso nulla. Buonasera anche a te, Giovanni. Ah, siamo qua in Porto Torres. Porto Torres? È Porto Torres. Come va a scelte visualizzare lì? Perché è passato anche io, c'è un bici che andare a Edo con Alessandro Cappa. Ma sicuro di sé che sei equipe? E mi chiama la Britella, Va bene. Sicuro di sé? Non sei sicuro, fatta figura. Era calmissimo, era. Con il capo è attaccato. Ciao a tu. Danny? Sì. Chi sei? Porto a forza. siete con le cose. Alla brittella siete. Chi era più forte, io o lui? Siete uguali, siete in occhi. Sono vicini, ho attaccati. Ah va. Aspettami. Ehi, per carità, perca. Io va bene, mi senti? Ci vanno dritti già. Sono da qua, dai, da... Come si chiama? Da... dall'agraria. Sì, vabbè. Ciao, ci sentiamo, buonanotte. Ciao, ciao, ciao. Buonanotte. Avanti. Oh, altro. Gianni, già chiudendo sta. Ho salutato a loro che stanno facendo la trattata. Adesso ti accompagnerà a te Nazzarino, capito? Adesso ti accompagnerà a me, poi io riprendo la casa io, cava. Io, va bene. Ah, siete tutti in pari, sì. E io? Sono in una macchina e due radio. Ah, sono due macchine e due radio. No, una macchina e due radio. Anzi, quattro. Una ce n'ha Gianni, una ce n'ha Natalino, una Alessandra e una Luca. Ma cosa? Però sono importati. Luca Fonte. Stavo scritto, Natalino, Gianni, Alessandro e Luca non mi sentivo più a piombo. Perché Natalino ti mandano i Gianni, Gianni ti mandano Alessandro, Alessandro ti mandano io e lei si può più migliore. Ma tu, o mi sbaglio? Ma tu, ma non sei soltanto Torres e in gergo CB. A papaccio. Ma te lo dico io come si dice? Sì. Fatatango. Fatatango. No. Fatatango. Io fa fatatango. Fatatango. E di fatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatat sabato sera devo dare una festa e mi sono comprato il karaoke nuovo e dopo la festa col karaoke e io faccio il disco di occhi. Calda della frequenza entrerà fra un po'. E lasciarò mangiare prima. questa impostazione fissa, via. Non c'è calma della frequenza. Cavagata, cavagata. Via! E qua ci abbiamo la voce calda, ma ci abbiamo anche la voce tremenda, eh. C'è la voce tremenda. E io non c'ho anch'io, Bianchi, la voce tremenda. Ah, forse ho capito. Anzi, non tremenda, quattro menda. Cavagata, cavagata. Esatto, pure ci è arrivato. A gappa gappa, esci che ci sentiamo ancora di casa, ora. E cavagata. Giovanni! Giovanni, finito male di Cuditti! Giovanni, ci sei! E che bestia, non si intende nulla, no? Ma e di zone va bene? E non è l'escudendo Giovanni, che fa? Perché ti chiedi che quando parte dall'altra parte non li misureggia? Sì, ma dove parte? Rimane la macchia dell'olio, di grasso, di cose, roba di mezz'ora. Già lo so. Tutte le scorie radioattive. Tutto l'inquinamento, Nato. Che caso mi ci stava uscendo? Radioattive. Dica però non ho detto, eh. Antonio, Antonio. Qua. E prendi Antonio, ciao. Ma di schiaccio stavo, non so come mai. Ci sarà qualche strappo che hai fatto portando su qualche bomba? No, difficilmente io faccio una strappa. Che ma può succedere? Anche io non cado mai la fatica con che ci dico, ma ce saranno. No, ma non è strappo, assolutamente. Sicuramente mi sta prendendo appena la febbre o qualcosa del genere, perché c'ho dolore un po' alle ossa. Può darsi. Non esageratamente, però. Se sta male il brutto sarà adulto. Io sarò adulto. Lui da solo ci va a portare il bombo. No. Allora già va bene. È bello che cosa deve andare, cose molle tutto un canto cucino, no? Sì, vabbè, ma quello che fanno due non è che lo può fare uno da solo. No, veramente uno da solo che fa lavoro per due. Ah, così? D'acqua. E l'ultimo, portato il baracchino al mondo, è da curare, bello tranquillo. E l'antenna dove l'hai messa? No, è stata in un lato così. E quella magnetica hai messo? No, di là a Bella 1. Tennai, è che te non me lo guidi? Sì, come ha fatto il sistema? Ho messo un dipolo. Ah, vedi? Sì, ho legato il dipolo da una sponda all'altra. Non è possibile. Avevo rovesciato. Sì, rovesciata, dritta, storta, come vuoi. Va bene. Va bene. Ho detto va bene. L'hai sentito tu? Io sì. Allora, boh, se l'hai sentito già va bene. Ma molto lo sentivo basso, eh. Vabbè, non tutto si può pretendere, eh. E almeno è camuffato. Cazzo, già, magando mai. Perché non può essere? Tutto può essere, sì. Ma quando mai, secondo te, il figlio va malato di capo, così assai, può essere malato di capo, so, ma non così assai, non la può essere di polo, carino. Anzi, non il dipolo, il bipolo. Bene, bene. No, non so io cosa ci hai messo, cosa ne so. Te ne butto pure nel magazzino, quindi può darci che l'ho messo anche molto. Allora, c'è presente una di quelle staffe di antenna a rondina di autoradio vecchie? Ecco, lì ci ho messo un bullone con una staffetta e l'ho messa la rondina del posteriore dietro lo schienale, al paracabina. C'è la retta che esce della rondina, no? Ho messa di lì, avvittata di lì e basta. Un'antenna, è la stessa antenna che ho io nella macchina. Ah, appagato. Ma comunque già esce. Ma già esce anche con l'antennino in gomma. L'altra volta era con l'antennino in gomma, ci va lo stesso. Perché è buono con le baracchine. Adesso già, l'elastico al braccio c'hai. Ho detto è buono quello della Intec. Sì, insomma, un pochino già si sente. Già alle volte, l'altra volta ho messo anche quello che c'avevo nella macchina. Se avessi messo quello che c'ho io, non c'era bisogno di fare nulla, ci mettevi l'antenna sulla capotta e via. E l'attaccaci di sigari, boh. E quello che c'ho in macchina ho già il coso di sigari. Ma il mio c'è anche l'antenna portatile. Ah, quel po'. Non ce l'avevo quello, c'è rotto. è da riparare. Mi do della Luigi Cucca, la sto a fare riparare. Che nomi quella base calamitata? Ce l'ho qua. Ce l'ho qua davanti. Ce l'avevano tutti che ce l'avevano in gomma, non serviva nulla. Quello che c'ho io va bene. E ma io c'ho anche quella già. La voglia che ce l'ho. No, ma ci ho messo quella lì, tanto. Parlo che devi fare, tu ti dai. Infatti. Vedi che se metti l'altra, qualche watt in più ti dà, ma quella lì, da quello che dà. Comunque non è una brutta idea, a me è più poco. Magari c'è anche più forte. E poi già non ti sento più, Ma detta, mettete di polo anche, che va bene. No, sai che ho intenzione? Dietro il paracabina di saldare un bel tubo, quel tubo innocenti, no? Tipo roll bar e poi metterci una staffa al centro e mettere la spada a 5. No, ci puoi mettere quella che c'è tu, l'Alem, come ti diciamo? La Storm. Ehi, quella lì ci puoi mettere. Quella non sarebbe male. Infatti. Magari ti sentono un po' di più. Però va bene in barca, sui camion. Te lo so, anche in moto va bene. Quasi, mi hai dato un'idea, amico. In realtà che era buonissimo. Tanto non si nota nemmeno qualcuno, vedi chissà cosa in piedi, così. E credi che sia un roccio di cupo, si pigliava spazzini. E a voi quando si nota cosa ti ha fatto? Ah, a me nulla. Tanto c'ho sempre il foglio appresso, quindi non me ne frega niente. Infatti. Interessante che stai usando tu o tuo figlio. Beh, certo. Non ho problemi, però. Io sono in regola, io sono più tranquillo. Io se no, tanti credi che mi ero guidato, io. Dai, ci usi, infatti. Finché non ho messo a posto tutto quanto, che ho cambiato anche, perché prima c'erano gli altri. Adesso ci ho messo questi, i tarachini, quelli che c'ho nuovi. E anche se avevo la cosa, la licenza vecchia, ma non avevo questi qua iscritti. Adesso c'ho questi iscritti, tutto pagato, tutto a posto. Tutta la richiesta, tutto nuovo, quindi. Infatti. Ma nessuno ha messo in dubbio che tu sei a posto. E vabbè, sai, però no, se non ci hai gli iscritti, sai, non è che sei tanto a posto, perché nella cosa vecchia c'era quello vecchio, e quindi questi qua non ci hai iscritti, e magari se ti fermano te rompono le balle. No, ma non c'è. Se non ce li hai segnati, vedi? Interessante che siano omologati. Omologati già sono omologati, siamo solo la Lancento è omologato e la 48 è omologato lo stesso. Che sono omologati soltanto che se non c'è l'iscrizione, perché lo devi mandare il foglio, perché vogliono sapere che tipo di cosa c'hai. Mi interessa che tu li denunci. Comunque, io ho fatto tutto e almeno sono a posto. Chi se ne frega intanto. Una volta all'altro non ho messo in vita. Per un anno si è a posto. A gennaio va a fare, ma pensare se siamo ancora in ordine. Beh, è meglio uscire con le precauzioni. Oioia, gli anni, quel braccio. Io ti faccio fare un coso dalla, come si chiama? L'ovraiaggio. Che quando parli ti tira sul braccio, a molla. No, mi compro un microfono amplificato così almeno non c'è problema. Oh, è un diano 1000, non si può mettere. No, perché l'eco ce l'ha. No, se no te lo regalo. Perché non funziona? Lo sapevi sì che sto usando questo qua, lo uso anche per l'ala 48. Ho fatto lo spezzone, no? E lo scambio da uno all'altro. Non so, l'hai sentito come funziona? No. Come no? Sì, la voce ha mai detto, la settimana la sera comunque lo va a vedere anche. Ho bloccamento? Sta venendo un po' di sonno. Così presto? E pare che Luca non entra. Luca, sarà andato a dormire? Sì, sei un po' sconsolato perché non ho preso lui. Bro, già che sei andato a mangiare, a 2-4 mesi. A mangiare? E tu? Ciao, Ale. Ciao, popolo. Ma dove stanno parlando con il suo papà? Non è proprio questo. Ciao, negativo, sono qua. Qua. Paga. Beh, bisogna che facciano come te che si è messa sul tetto l'antenna. Cosa? Bisogna che facciano come te che si hanno messo l'antenna sul tetto. No, si può uscire. No, non a fare così. Aspetta un attimo, già. Ecco Rix. Già, riesci bene. Così che la delusione. Non avete preso niente, così che. Vale. Tipo di bianco. Ho capito. Perché ora è andato a vedere qualcosa. Comunque si è arrivato al porto industriale. Sono arrivato al porto industriale? Basso ma si è arrivato. Pensa che ti non ci arriva la signora, ho capito. Lo so, che magari la cosa fa volere. È la seconda. Non lo so. Dipende. E quella zona più favorevole a me. Vedi? Attacca. Se ero stato io mi avresti sentito più forte. Allora dimmi come fa. Che mi senti anche il coso. Bombone mi sente la palmata. Come mai? No, lo so. E chi bombone a me non mi intende. Dipende, è quella zona di dividere un po' buia, è Porto Torres, a seconda della posizione. Tribula. No, amore, se non c'ha guardarmi alto è perché ti arrivo a Santiago 3, è un po' forte di raio. Però se c'ha QRM superiore a 3 non mi sente. Mi sente in radio buona, capito? Ma guarda, per poi me ne sta andando, non ce la faccio più. Buonanotte. Domande rischi o no? No, mi manco domani. Ciao, buonanotte. Ci sentiamo tutto domani. Buonanotte, già. Ciao anche a te, bombe. Chi altro c'è rimasto? Alessandro. Forse voluto fare qualcosa. Natalino non è entrato. Aspettiamo un po', vediamo un po', grazie. prova. Yeah.